Non so se tra le pallide brume il tuo sorriso m'apparve in una bruma tiepida e distesa, ma io morii dal male che sorse dalla tua bocca e dal tuo tiepido sorriso infatuato. Non so se tra il male che mi vuole il tuo sorriso esista la pietra puntata della differenza, se gemelle le nostre anime sono, non so come accordarle al tuo suono flebile. Non vedo la luna apparire di tra gli spuntati roccioni delle mie abitudini. Non so se tra le pallide rocce c'è il tuo sorriso m'apparve, oh sorriso di lontananze ignote, o se tra le tue pallide gote stornava il ritornello che la tempesta ruppe sulla testa rotta. Non so se tra le pallide rocce m'apparve un sorriso di lontananze ignote, non so se di tra le pallide bocche, se di tra le pallide smorfie dei viventi io rimarrò ancora. Non so se tra le pallide gonfie tenebre della miseria tu entrerai a festare. Non so se tra le pallide fonti dei tuoi canti la luce si leva di sopra i monumenti. Non so se tra la pallida erba e il fiore. Non so se tra il pallido sole e la gioia. Non so se tra la gioia e il dolore. Non so se tu visiterai le tombe dei cristiani appesi nella mia gola, arsa dal male. Non so la lunga linea dell'avvenire. Non v'è nessuna luce e la preghiera. Non so se la preghiera muore.